Giornate, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ma possiamo sommessamente dire che di dilettanti allo sbaraglio ne abbiamo visti troppi e ci sono già bastati? E che forse non bisogna ripetere un'esperienza che pesa sulle spalle di tutti noi, di quelli che da professori ci hanno spiegato come doveva diventare la vita e che hanno fatto sulle pensioni, sul mercato del lavoro, sulle norme un disastro. Questo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è una parte del discorso accorato che ha fatto la leader della CGIL Camusso oggi durante lo sciopero generale che ha riguardato tutta Italia. In varie città ci sono stati scontri e tafferugli, poi l'appello di Napolitano alla calma, Renzi che ha detto rispettiamo tutti, ascoltiamo tutti, però poi noi andiamo avanti. Di questo naturalmente parleremo questa sera a fine della settimana con questo sciopero che è stato annunciato da tempo. E poi naturalmente ci sono molte altre notizie, ci sono delle novità ancora, continua a essere una notizia sempre più primo piano, quella del delitto di Loris, e poi c'è anche un arresto per un femminicidio di 2 anni fa. Si cercava da tempo il colpevole, probabilmente si cercavano delle prove schiaccianti, adesso vedremo se sarà rinviato a giudizio. E poi parleremo anche di Mafia Capitale, ci sono ulteriori risvolti soprattutto legati al business dell'accoglienza dei rifugiati, degli immigrati, Mafia Capitale della Piovra, insomma, su Roma. Se voi volete fare i vostri commenti, lo sapete, ci sono sempre due possibilità: o gli sms al 349 238 6666, oppure la pagina di Effetto Notte su Facebook. Stasera non vi lancio un tema in particolare, però le notizie sono tante, quindi man mano che le sentite potete commentarle. Intanto vi riassumo le notizie principali della giornata. Sciopero generale, alta adesione tra scontri e tensioni. A Torino, Milano e Roma tafferugli. Napolitano chiede rispetto reciproco. Il governo commenta: ascoltiamo, ma andiamo avanti. Corruzione: il Consiglio dei Ministri vara il decreto con le norme più severe. Sentenze veloci e nessuna tregua per i corrotti, assicura Renzi. Borse: ancora una giornata nera. Incide anche il calo del petrolio. Il presidente della Commissione europea avverte: non ho denaro fresco, lo dico a italiani e francesi. Il delitto di Santa Croce Camerina: era di un'amica il cellulare segreto della mamma di Loris. A Bordighera intanto la confessione della donna che ha negato il figlio. Pensavo, dice, fosse malato. Ragazza morta nel lago di Bracciano: dopo 2 anni è stato arrestato il fidanzato. Mafia Capitale: il sindaco di Roma Marino formalizza la costituzione del Campidoglio nel processo come parte offesa. E per quanto riguarda la moda, la direttrice creativa di Gucci Frida Giannini e il presidente Patrizio Di Marco, compagni sul lavoro e nella vita, lasciano l'azienda. E partiamo quindi dalle importanti decisioni che ha preso il Consiglio dei Ministri stasera in tema di corruzione, misure che erano state annunciate, vi ricordate, da Renzi nei giorni scorsi, proprio all'indomani dell'inchiesta sulla mafia romana, su Mafia Capitale. Betta Fiorito, quindi quali sono le principali decisioni prese? Ciao Betta, da Roma. Allora, intanto il governo ha varato un disegno di legge, non un decreto, perché è inappropriato in materia penale, e integra poi il pacchetto del ministro della giustizia Andrea Orlando. Il governo chiede anche al Parlamento di correre, preannuncia la possibilità di fiducia, nessuna tregua, nessun patteggiamento, carcere assicurata, restituzione del mal tolto per i corrotti. 4 punti quindi: il principale è l'innalzamento della pena per la corruzione, che passa per la minima da 4 a 6 anni e per la massima da 8 a 10. I corrotti quindi non potranno più evitare il carcere anche con il patteggiamento e dovranno ripagare tutto, gli eredi addirittura saranno corresponsabili per la parte patrimoniale. Si allungano poi i tempi della prescrizione di 2 anni, ma sentiamo che cosa ha detto il Premier Matteo Renzi. Ridateci il malloppo, e se non ce lo ridate ce lo prendiamo da soli. Vorrei essere chiaro, cari corrotti, non soltanto vi becchiamo, ma quando vi abbiamo beccato non vi consentiamo, non vi permettiamo di svignarsela con i soldi. Perché il meccanismo di oggi è che tu rubi, poi ti beccano, patteggi, quindi dici è vero, ho rubato, esci di carcere perché hai patteggiato e ti tieni anche una parte significativa dei soldi che hai rubato. Questo è l'elemento che frustra e che fa arrabbiare la gente. Questo giochino sarà finito quando il Parlamento approverà questa legge. Come ha detto quindi Betta Fiorito, un disegno di legge, anche se tutti i siti titolano decreto, invece Betta Fiorito giustamente corregge. Quindi in sintesi, Betta, il suo annuncio è quello: corrotti, ridateci il malloppo e andate in galera. Sì, in sintesi è: corrotti, dovrete ridarci il marloppo, se l'avete poi intestato ai vostri figli ce lo ridaranno loro, questo un po' che... e poi oltretutto però dice anche la magistratura che i processi e le sentenze devono arrivare più velocemente possibile. Ora, il fatto che sia un disegno di legge, però poi il governo può anche spingere, può avere una procedura d'urgenza, quindi può essere anche approvato in tempi brevi, Roberta. Vediamo che cosa succederà in Parlamento. Vediamo quale sarà l'iter. Grazie Betta Fiorito da Roma. Ciao Elisabetta. E poi c'è l'altra importante notizia di oggi, lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL, che ha avuto un'alta adesione, ma è stata soprattutto una giornata anche di scontri nelle piazze, soprattutto a Torino, Milano e Roma. Il Presidente della Repubblica, Napolitano, ha invitato alla calma. Oggi si è fermata l'Italia per farla ripartire nella direzione giusta. 54 piazze, 8 ore di sciopero per una protesta che mira a convincere il governo a cambiare il Jobs Act modificando anche la legge di stabilità. E Carmelo Barbagallo, leader della UIL, a rivolgersi al Premier Renzi. Caro Presidente del Consiglio, ci stupisca, ci convochi e discuteremo del futuro di questo paese. 40.000 persone a Roma in uno dei maxi cortei promossi dalla UIL e dalla CGIL, a cui ha aderito anche l'UGL. Almeno 70.000 in piazza Torino, dove il segretario della CGIL, Susanna Camusso, ricorda che durante il governo Renzi la disoccupazione è cresciuta. Ci ha raccontato, e noi avevamo applaudito, che saremmo andati verso gli ammortizzatori universali. Possiamo guardare cosa stanno scrivendo? Stanno scrivendo che chi ci aveva le tutele ne avrà un po' meno, che quelli che non le avevano continueranno a non averle. Ma nel frattempo la disoccupazione è cresciuta. Adesioni al 70% dicono i sindacati, ma anche scontri nei cortei animati anche dagli studenti. 9 fermati e 4 feriti nel capoluogo piemontese, mentre a Milano sono 11 i contusi tra le forze dell'ordine coinvolte negli scontri davanti al Palazzo della Regione Lombardia. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dicevamo anche dell'appello alla calma che è arrivato da Napolitano. Il governo ha le sue prerogative e le ha anche il Parlamento e ha il suo ruolo da svolgere del sindacato. Sarebbe bene che ci fosse rispetto reciproco di queste prerogative e che non si andasse ad una esasperazione come quella di cui oggi abbiamo il segno e che non fa bene al Paese. E il governo fa sapere davanti a questo sciopero, ascoltiamo ma andiamo avanti. Lo sciopero generale riporta in primo piano le tensioni fra governo e sindacati. Da Istanbul, il premier Renzi stamattina ha preferito non fare un riferimento diretto alla protesta, ma ha comunque ribadito la necessità di portare a termine le riforme. Rispettiamo chi era in piazza, ma noi andiamo avanti, commenta invece il ministro del lavoro Poletti. Ascoltiamo ciò che la piazza, ciò che lo sciopero ci dice, ma dall'altra parte siamo fermamente intenzionati a procedere sul versante della concreta attuazione delle riforme, perché l'Italia non si può permettere un colpo di freno e perché questa attesa è un'attesa che c'è anche a livello europeo. Lo sciopero rinfocola anche le polemiche nel Partito Democratico. In vista della resa dei conti attesa nell'assemblea di domenica, la minoranza interna chiede a Renzi di ascoltare la piazza, a schierarsi con i lavoratori e anche l'ex premier D'Alema, che però passando nel corteo di Bari oggi è stato pesantemente contestato da alcuni manifestanti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto restano i moniti e le preoccupazioni europee. Il ministro dell'economia Padoan avverte: la crisi non è finita, dobbiamo fare presto col piano Juncker. E da Norimberga rimbalzano durissime le parole proprio del presidente della Commissione europea Juncker, che dice: io non ho denaro fresco, lo dico ai romani e ai parigini a cui tutto questo non basta. Questo mentre il commissario agli affari economici e monetari europeo Moscovici oggi era in visita a Roma. Étant aujourd'hui ici à Rome, je veux reconnaître qu'il y a assurément. Sono qui a Roma e devo riconoscere il grande sforzo fatto sulle riforme. Il messaggio che porto non è punitivo, ma di sostegno. Non critico chi sciopera, è un diritto fondamentale, ma bisogna fare le riforme. Queste le parole pronunciate oggi dal commissario europeo Pierre Moscovici in visita in Italia, dove, sotto l'occhio attento di Bruxelles, il governo è alle prese con la legge di stabilità. All'appello mancano gli emendamenti più significativi, regioni, province. bilancio, IRAP, tassazione, fondi pensione e così via, ma è già atteso un mini slittamento per l'arrivo in aula da martedì a giovedì. E il relatore Santini avverte: se vogliamo rispettare i tempi dobbiamo procedere col metodo dei segnalati e scendere da 3.800 a 500. Tra le proposte arrivate finora, la cessione della rete elettrica delle Ferrovie dello Stato a Terna, gli oltre 530 milioni alle Poste, come stabilito dall'Europa, e la maggiore trasparenza sul 5 per 1000. E ancora, le forze dell'ordine potranno usare carburanti sotto sequestro e le armi resteranno sui set dei film. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamoci sulle notizie dall'estero, in Medio Oriente, dove continua a salire la tensione, mentre anche il Portogallo, come altri stati hanno fatto negli ultimi tempi, riconosce la Palestina. Un attacco all'acido che ha avuto come obiettivo una famiglia israeliana di 6 persone ha riacceso la tensione in Medio Oriente. L'attacco è avvenuto nei pressi di un checkpoint a Beit Arelit in Cisgiordania. I feriti non sarebbero in gravi condizioni, mentre l'attentatore, originario del villaggio palestinese di Nahalin, è stato ferito a una gamba. Il tutto mentre sulla delicata questione medio orientale è avvenuta una conversazione telefonica tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano John Kerry. I due capi delle diplomazie hanno sottolineato la necessità di adottare misure coordinate per promuovere la ripresa al più presto di negoziati di pace. Sul fronte europeo, il Parlamento portoghese ha votato in favore del riconoscimento dello Stato indipendente e sovrano della Palestina, chiedendo al governo lusitano di fare altrettanto. La mozione era stata presentata dalla maggioranza di centrodestra insieme col Partito Socialista, principale schieramento di opposizione. Il voto portoghese fa seguito a quello analogo degli emicicli di Francia, Gran Bretagna, Spagna e Irlanda. In Svezia invece è stato lo stesso governo a riconoscere la Palestina, questione geopolitica sulla quale l'Europa appare più divisa e a macchia di leopardo che mai, anche se monta, come dimostrano questi voti, una certa insofferenza verso l'incapacità di muovere verso la soluzione dei due stati. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo dell'inchiesta su Mafia Capitale. Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha firmato da parte sua l'atto con cui formalizza la costituzione di parte civile del Campidoglio, e dalle carte di Mafia Capitale sono venute fuori altre novità, per esempio che uno dei due capi, il capo soprattutto Massimo Carminati, è ritenuto di questa cupola, ma diciamo il suo braccio destro Salvatore Buzzi, avrebbe avuto un appalto da 800.000 euro per le piste ciclabili a Roma. Intanto il tribunale del riesame ha confermato il carcere, l'aggravante mafioso per coloro che sono finiti in carcere. Dopo ne parleremo e torneremo a parlare anche con l'avvocato di Massimo Carminati, dovremo riuscire a raggiungerlo. Adesso, per quanto riguarda invece notizie di cronaca di altro tipo, parleremo più tardi anche delle novità sul delitto del piccolo Loris in Sicilia. E intanto a Bordighera, in Liguria, ce ne occupavamo proprio ieri, la turista russa, mamma del bimbo di 10 mesi, ha confessato. Le ricerche del piccolo Semyon, 10 mesi, sono riprese alla luce del giorno. Le motovedette incrociano al largo della riviera, setacciano il tratto di mare da Bussana fino al confine con la Costa Azzurra. La madre, Natalia Sotnikova, 40 anni, russa, ha trascorso la prima notte in una cella di isolamento del carcere genovese di Ponte Decimo. Ieri sera la donna ha ammesso la verità che gli inquirenti avevano sospettato sin dall'inizio. Sono uscita di notte con il mio bambino, ho raggiunto la spiaggia vicino alla scogliera, ho camminato nell'acqua, poi l'ho lasciato andare a fondo, ha confessato. Ai carabinieri la donna ha detto di aver agito così perché convinta che il piccolo Semyon fosse malato come lo era stata sua madre. Natalia Sotnikova ha raccontato di essere affetta da mesi da una grave forma depressiva. Per provare ad uscirne era partita per una vacanza nella riviera Ligure di Ponente con il suo compagno, risultato non essere il padre naturale del piccolo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Intanto torna alla luce un femminicidio di 2 anni fa. È stato arrestato Marco Di Muro, il fidanzato di Federica Mangiapelo, la ragazza che era stata trovata morta nel lago di Bracciano, vicino Roma, la notte di Halloween del 2012. I carabinieri lo hanno portato in caserma per notificargli un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per omicidio volontario aggravato. Parliamo del petrolio, che va sotto i 60 dollari, i livelli di maggio 2009 addirittura, e che impone alle borse europee intanto il quarto calo consecutivo. Se i timori sulla situazione greca e la parziale delusione per l'economia cinese hanno costituito le premesse per una nuova giornata in rosso, i continui ribassi del Brent hanno affossato gli indici, perdite superiori al 2% per gran parte dei listini principali. Milano è stata la peggiore, con la frenata del 3,13% del FTSE MIB. In chiusura, Una notizia che riguarda il mondo della moda: Frida Giannini e Patrizio Di Marco lasciano Gucci. A 10 anni dall'addio di Tom Ford e De Sole, la stilista romana Giannini lascia il ruolo di direttrice creativa unica di Gucci, e con lei va via anche il presidente e amministratore delegato, suo compagno Patrizio Di Marco e padre della sua bambina. Epilogo ci sarà il 25 febbraio con la presentazione della collezione Donna. Alla guida va Marco Bizzarri, ancora vuoto il ruolo invece di direttore creativo. Tra pochissimo allora ci occupiamo di uno dei temi principali ormai da qualche settimana. Vedevo dei messaggi, per esempio al 349-238-6666 dice: ma come si permette Renzi di parlare, dice questo ascoltatore, di corruzione con un padre massone e l'ultima bancarotta fraudolenta di nemmeno 2 mesi fa? Adesso non so se sia massone, c'è questa cosa della bancarotta fraudolenta, si vedrà come si evolve da un punto di vista giuridico. E poi un altro ascoltatore che dice: non è con l'inasprimento delle pene che si combatte la corruzione, ma facendo ruotare il personale, esattamente come successe coi vigili romani. Ecco, questo particolare non mi è noto. Comunque 349-238-6666 per i vostri commenti, e poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto aggiorniamo chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, e adesso se avete acceso la radio in questo momento, vi siete messi in macchina oppure mentre stirate, vi ricordo quali sono state le notizie principali di questa giornata e poi ci soffermiamo su una di queste. Lo sciopero generale, caos e scontri, cortei in oltre 50 città. Renzi dice: non mi faccio impressionare. Napolitano invoca rispetto, fermi la metà di aerei e treni. Aumentano le pene sulla corruzione, il disegno di legge che è stato varato dal Consiglio dei Ministri poco fa. Ci saranno fra le varie misure confisca dei beni e aumento dell'allungamento della prescrizione. E poi il petrolio che scivola sotto i $60 e affonda i mercati, con Milano che chiude in forte calo a meno 3,13%. Il ministro dell'Economia Padoan che chiede di fare presto con il piano lanciato dall'Europa, e il presidente della Commissione Juncker dice: non ho soldi freschi. Moscovici, commissario europeo per l'economia, dice: bene le riforme in Italia, ci aggiorniamo a gennaio. Sul caso Loris spunta il secondo cellulare di Veronica, intanto è stato convalidato il fermo della giovane mamma di Loris in carcere. Intanto c'è la confessione shock della mamma russa Bordighera, che dice: ho negato mio figlio, pensavo fosse malato. E poi dalla moda, Frida Giannini e Patrizio Di Marco lasciano Gucci. Questo è il terzo giorno di carcere per Veronica Panarello, la giovane donna di 25 anni accusata di aver ucciso il figlio Loris di 8 anni a Santa Croce Camerina in Sicilia. Ne abbiamo parlato lungamente in questi giorni da che è scoppiato questo caso, purtroppo. Oggi sarebbero 2 le notizie di aggiornamento. È stato trovato il cellulare segreto, cosiddetto segreto, di Veronica, anche se forse poi nelle ultime ore è una notizia non notizia, adesso cercheremo di capire. E poi il GIP di Ragusa, oggi era attesa questa convalida o meno, ha convalidato il fermo e emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Veronica Panarello. Quindi la mamma di Loris resta in carcere, lei continua a professarsi innocente con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Il GIP dice che, perché ha giustificato questa convalida del fermo, dice: la ricostruzione fatta dalla procura è compatibile, effettivamente credibile. Tra l'altro la mamma di Loris è stata vista con la macchina ben 2 volte al Mulino Vecchio, dove il bambino poi, dopo essere stato strangolato, era stato gettato. E ne parliamo con Peppe Savà. Buonasera Peppe. Buonasera a tutti. Giornalista di Ragusa News, che è lì sul campo da diverso tempo. Allora Giuseppe, prima di tutto questa cosa del cellulare, alla fine è davvero una notizia? Non era soltanto di un'amica, l'aveva prestato un'amica, che vicenda è questa? È una notizia secondo me, secondo me è una notizia per la seguente ragione: nel cellulare noto di Veronica c'è un traffico telefonico insospettabile, nel senso che non dà adito a ipotesi investigative che possano portare a un complice. Viceversa, la donna, il lunedì sera, l'omicidio del bambino risale a sabato 29. Sì. Il lunedì sera lei, in un momento di scarsa lucidità probabilmente, o di sdoppiamento della personalità, ha detto a sua sorella: ho nascosto bene l'altro cellulare. Cioè lei dà questa informazione che nessuno le aveva chiesto. ho nascosto bene l'altro cellulare dove ci sono le foto di Loris. La sorella di Veronica a questo punto riferisce agli inquirenti, sì, che Veronica parla di un secondo cellulare dove sono nascoste bene le foto di Loris. Finalmente ieri, durante l'interrogatorio di garanzia presso il carcere femminile di Catania, Veronica ha indicato agli inquirenti dove si trovava questo secondo cellulare. Il secondo cellulare a questo punto apre uno squarcio sulla seconda vita di Veronica. Probabilmente Veronica aveva rapporti con altre persone fuori dal nucleo familiare e intratteneva questi rapporti grazie a una utenza telefonica che non era intestata a lei, ma era intestata a questa amica. Dai tabulati del traffico telefonico in questo secondo cellulare potremmo sapere se esiste Mister X, cioè se la mattina in cui Loris è stato ucciso a casa di Veronica ci fosse per caso una persona che evidentemente era in relazione con Veronica, che ha aiutato Veronica a fare scomparire il bambino, nel caso fosse vero che lei ha ucciso suo figlio. Peppe Savà, se questa ipotesi, si fa soltanto ipotesi naturalmente, fosse vera, significherebbe allora che può essere credibile una delle piste secondo le quali il bambino potrebbe aver visto la mamma in una situazione che non doveva... Imbarazzante, imbarazzante. E questo potrebbe essere semmai il movente, sono tutte illazioni. Potrebbe essere il movente che spiegherebbe tante cose. Una situazione di imbarazzo che si crea la mattina, il bambino ha 8 anni, è in grado di capire cosa è successo. La madre non sa come nascondere l'imbarazzo del fatto che ad esempio c'è un estraneo in casa a quell'ora, in un orario in cui non dovrebbe esserci un estraneo in casa, papà è lontano. Perché fa il camionista, no? Fa il camionista, è lontano per lavoro, il bambino vede e a questo punto diventa un testimone scomodo. Potrebbe essere una ricostruzione molto fantasiosa di ciò che è accaduto, ma che darebbe un movente a un delitto che attualmente non ha movente. Non si capisce perché questa madre avrebbe dovuto sopprimere il bambino in maniera così feroce, inaudita e senza pietà. Peppe, comunque gli inquirenti mi pare lo abbiano detto già negli ultimi giorni, quando è stata portata in carcere la mamma, forse il giorno dopo, hanno detto le indagini sono tutt'altro che concluse, continuano evidentemente. Secondo me sono tutt'altro che concluse, perché non si capisce qual è il movente dell'omicidio e probabilmente questo secondo telefono ci racconterà molte cose. Per ora si sa solo che ci sono delle foto di Loris, no? Probabilmente delle foto... anche questa è una cosa, una circostanza. Può darsi che come ogni mamma fa le foto al proprio bambino e le conserva e basta. Sai, le ipotesi sono tante, nell'ipotesi che il bambino fosse vittima di attenzioni sessuali da parte di un ipotetico terzo personaggio, allora si potrebbe immaginare che queste foto siano foto compromettenti, ma a me pare fantasiosa, a me pare più probabile che lei avesse un archivio fotografico di foto scattate al bambino, che lei abbia detto in un momento di scarsa lucidità alla sorella, sai, ho nascosto l'altro cellulare, nell'altro cellulare ci sono le foto del bambino, foto che qualunque mamma farebbe al proprio figlio. Certo. Peppe Savà, tra l'altro mi sembra che invece quello che era stato il primo indagato, il cacciatore che aveva trovato per primo il bambino nel canale, abbia un alibi che sia stato confermato? Sì, ha un alibi, resta da capire come il cacciatore, saputo della scomparsa del bambino, vada a colpo sicuro al Mulino Vecchio a cercarlo. Tra l'altro questa lì cosa non questa è chiara. Rimane ancora poco chiara. Tra l'altro proprio nel Mulino Vecchio diceva il GIP oggi che ha convalidato il fermo di Veronica Panarello, secondo le telecamere che avevano registrato in quel giorno l'auto di Veronica Panarello sarebbe stata 2 volte al Mulino Vecchio. Ma ti chiedo, hanno detto se si vede anche lei in questa macchina o accanto a questa macchina o parlano solo dell'auto? Parlano dell'auto, ma non ci sono dubbi che l'auto venga condotta da lei, nessuno. nessun altro avrebbe potuto condurre l'auto. Non ci sono dubbi, neanche perché durante tutta la mattina l'auto viene segnalata da svariate telecamere disseminate per il paesino, è sempre lei alla guida dell'auto. Su questo dubbi non vi sono, anche perché una vigilessa racconta di aver visto Veronica con il bambino piccolo, il fratellino minore di Loris, in auto che guidava. Quindi che abbia guidato lei l'auto non vi sono bisogno al momento. Resta da capire se in casa, perché c'è un'altra circostanza strana, le chiavi di casa. Il bambino non aveva chiavi di casa, il bambino alle 8.32 litiga con la mamma, ritorna a casa e quindi accede alla porta di casa, al portone di casa, ma il bambino era senza chiavi. Domanda: chi apre al bambino? Visto che in casa, stando a quello che racconta Veronica, non c'era nessuno, forse c'era un'altra persona in casa che ha aperto al bambino? Resta il dubbio su Mr. X. Ancora moltissimi interrogativi, insomma. Intanto grazie Peppe Savà, grazie mille, grazie, ciao, buon lavoro, buona serata. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, vedo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. C'è Chiara che dice: più che altro questi inasprimenti sulla corruzione non si applicheranno agli indagati di Roma per il principio di irretroattività della legge penale. Sì, questo è chiaro, Chiara. E Corrado da Milano invece dice: fate schifo, per fare audience date pure voce all'avvocato di uno sporco mafioso, mafioso l'avvocato e mafiosi voi. Corrado da Milano, complimenti Corrado, ma mi sembra che l'informazione veramente debba dare spazio a tutti, a parte che c'è sempre la presunzione di innocenza finché non si è condannati, ma insomma si sentono le varie parti, altrimenti gli avvocati non parlerebbero mai, perché difendono sempre qualcuno che è accusato di qualcosa, ti pare? Adesso vi riassumo le notizie e poi andiamo proprio su questo argomento. Sciopero generale, alta adesione tra scontri e tensioni a Torino, Milano, Roma, Tafferugli, Napolitano che chiede rispetto reciproco, il governo che commenta, ascoltiamo, ma andiamo avanti. Corruzione, il Consiglio dei Ministri vara il disegno di legge anticorruzione e Renzi assicura sentenze veloci e nessuna tregua. Borse, ancora una giornata nera, incide anche il calo del petrolio, il Presidente della Commissione Europea Juncker avverte: non ho denaro fresco, lo dico soprattutto ai italiani e francesi. Il delitto di Santa Croce Camerina, di cui abbiamo appena parlato, era di un'amica, il cellulare segreto della mamma di Loris. A Bordighera intanto c'è la confessione della donna che ha negato il figlio e dice: pensavo fosse malato. Ragazza morta nel lago di Bracciano, dopo 2 anni è stato arrestato il fidanzato. Per Mafia Capitale il sindaco di Roma Marino formalizza la costituzione del Campidoglio nel processo come parte offesa. E per quanto riguarda la moda, terremoto, così si può dire, in casa Gucci, perché la direttrice creativa ormai da 9 anni, Frida Giannini, lascia, e così il presidente e amministratore delegato e anche suo compagno Patrizio Di Marco. Torniamo quindi a parlare di Mafia Capitale, perché siamo ormai da giorni concentrati purtroppo su questo ennesimo scandalo italico, quello fatto emergere dall'inchiesta della Procura di Roma guidata dal procuratore capo Giuseppe Pignatone, che è stata definita questa inchiesta Mafia Capitale per descrivere quell'incredibile consorzio del malaffare che ha attanagliato Roma come una gigantesca piovra, un consorzio composto da ex criminali riciclati, dicono gli inquirenti, politici, manager delle aziende municipalizzate. E l'inchiesta, ve lo ricordo, ha portato in carcere 37 persone, ne ha indagate un centinaio, tra cui anche l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Ognuno in questa cupola romana, aveva spiegato Pignatone, aveva il suo ruolo, ma tutti rispondevano, sempre secondo gli inquirenti, al capo, ovvero Massimo Carminati, ex terrorista nero legato alla banda della Magliana e, si dice nell'inchiesta, anche alle varie trame nere degli anni di piombo. E oggi il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione da parte dei difensori per Massimo Carminati, appunto, e poi Riccardo Brugia, Roberto Jacopo e Fabrizio Franco Testa, e anche rimane l'aggravante mafiosa. Buonasera avvocato Giosuè Bruno Naso. Buonasera a lei. Legale di Massimo Carminati, ci siamo sentiti qualche giorno fa, aspettava naturalmente la risposta, la decisione del Tribunale del Riesame, è andata come lei immaginava. Esatto, è andata come io immaginavo, ma come allo stato delle cose non poteva che essere così. Forse ve l'ho già detto anche l'altra sera, ma provate a immaginare un tribunale che deve decidere in 4-5 giorni il valutare l'operato della Procura della Repubblica riversato in 70.000 atti processuali e deve inevitabilmente compiere un atto di fede, perché 70.000 carte processuali non si possono leggere in 4-5 giorni e vagliare e valutare alla stregua di quelli che debbono essere i riscontri oggettivi ad un'accusa. E allora, quando un tribunale è costretto a compiere un atto di fede, state tranquilli che lo compirà in favore del pubblico ministero e giammai in favore della difesa, perché per cultura, per costituzione, ovviamente il giudice guarda con maggiore favore le istanze e le ragioni del pubblico ministero anziché quelle della difesa. Avvocato Naso, però lei due o tre giorni fa, quando ci siamo sentiti, aveva in qualche modo riconosciuto, visto che lo difende da anni, una carriera, aveva detto tra virgolette, criminale del suo assistito Massimo Carminati. Secondo lei, quindi, sono arrivati i magistrati per il momento a questa conclusione, che lui fosse il capo di questa cupola romana, perché ha molti precedenti o perché c'è effettivamente, no, con le intercettazioni, a vari indizi, diciamo, al momento, guardi, sua colpevolezza? Io avevo invitato il Tribunale della Libertà a non leggere, i giudici del Tribunale della Libertà, a non leggere la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ambientali, ma ad ascoltarle. Io ho provato a farlo per alcune di esse e, mi creda, è molto importante il tono con il quale si fa un'affermazione. Se lei legge per iscritto che Carminati dice nel corso di una conversazione ambientale: io sono il re di Roma, dopo la pubblicazione dell'articolo dell'Espresso e la copertina famosa dell'Espresso, i quattro re di Roma, io sono il re di Roma, se lei lo legge può interpretarla anche come una frase, come dire, convinta, una sorta di autocertificazione. Se lei la sente, coglie il tono scherzoso, ironico, parossistico con il quale la frase viene pronunciata e quindi comprende che è soltanto una butade. Ma non anche è. Se, avvocato Naso, lei ha sentito che nelle intercettazioni c'è anche il suo assistito Massimo Carminati, che temeva un po' l'arrivo alla Procura di Roma di Pignatone, perché dice ha ribaltato già altre regioni, la criminalità eccetera, succederà anche a Roma. Ma guardi che perché doveva essere interessato. Ma non bisogna essere Massimo Carminati per capire qual è il modus operandi di certi magistrati, Pignatone o non Pignatone, importa poco. Voglio dire, la storia giudiziaria e non solo giudiziaria di questi ultimi 20-25 anni sono segnate dall'operato di certi magistrati. Mi riferisco a Di Pietro, mi riferisco a De Magistris, mi riferisco ad Ingroia. Cioè, ma secondo lei, Naso, com'è finito Massimo Carminati quindi in questa inchiesta? È finito, guardi, cominciamo a conoscerle le carte, sono 70.000, ci vorrà qualche tempo per leggerle tutte, ma alla fine lo faremo e poi su queste carte ci confronteremo in tribunale. E le dico, è finito perché i carabinieri fermano nei pressi di alcune banche alcuni estremisti, ex estremisti di destra, dei quali accertano contatti telefonici e personali con Massimo Carminati. Questo induce a sospetto i carabinieri e cominciano a pedinare 24 ore al giorno Carminati, a censurare ogni sua conversazione telefonica, a controllare ogni suo contatto personale. È evidente che se si decide di trovare qualche cosa di poco chiaro o di losco, se ci si mette alle costole di una persona, alla fine qualcosa ne verrà fuori. Penso che questo avverrebbe anche nei miei confronti e scusi anche nei suoi. Non lo so, nei miei confronti non lo so, magari cose di altro tipo, ma non questioni legate alla criminalità. Mi dica l'ultima cosa. No, ma non cose legate alla criminalità, cose che possano suscitare equivoco. Io non parlavo di me. Poi tutto si può interpretare in una certa maniera anziché in un'altra. Avvocato Naso, un'ultima cosa, poi la lascio, che so che è impegnato anche stasera. Come intende procedere adesso? Io ho poche idee chiare, ma una è chiarissima. Questo processo noi ce lo discuteremo in tribunale davanti ad un collegio e tutte quelle che vengono evocate, ostentate come prove di responsabilità a carico di Carminati dovranno essere verificate nella pubblicità del dibattimento e nel contraddittorio del dibattimento. Quindi dovremo sentire tutti i testimoni, accertare tutte quelle circostanze che assumono in tesi di accusa per ora essere significative dell'esistenza di un'associazione di stampo mafioso a Roma e della implicazione di Carminati in questa associazione. Grazie, e avvocato. Poi ne vedremo delle belle, sono convinto. Ci risentiremo allora, la ringrazio. Volentieri. Avvocato Naso. Buona serata a lei. Grazie. Intanto oggi il New York Times, pensate, ha scritto: l'inchiesta sulla corruzione a Roma sta a ricordare che virtualmente non c'è un angolo dell'Italia che sia immune all'infiltrazione criminale. Un commento che ci fa una pubblicità terribile. In questa inchiesta c'è anche tutto il filone, tra l'altro, dei centri di accoglienza, di chi accumula denaro su emergenze e catastrofi, come Salvatore Buzzi, re delle cooperative romane, che a Capodanno del 2013 ebbe l'idea di inviare un messaggio di auguri a qualche amico dicendo: speriamo che il 2013 sia un anno pieno di monnezza, profughi, immigrati, sfollati, minori, piovoso, così cresce l'erba da tagliare e magari con qualche bufera di neve. Viva la cooperazione sociale, un auspicio per i suoi affari. E di questo aspetto ne parliamo con la nostra Valentina Furlanetto, che è in spedizione in Sicilia, a Mineo, vicino Catania, al CARA, al centro per i richiedenti asilo. E sapete, appunto, si diceva di che business si è scoperto nei centri per immigrati, rifugiati, molto legati appunto alla questione, all'inchiesta di Mafia Capitale. Valentina. Sì, ciao Roberta e a tutti gli ascoltatori un saluto. Appunto, un grande business, ne parlava Odvain e Buzzi, due degli arrestati di questa inchiesta Mafia Capitale. In particolare Odvain diceva proprio: sono in grado di orientare i flussi dei migranti, lui che sedeva al tavolo di coordinamento nazionale di immigrazione, perché diceva spesso passano per Mineo senza gare di appalto, le strutture disponibili vengono occupate e io insomma gli faccio avere parecchio lavoro. Valentina, come mai proprio quel centro lì in Sicilia è così importante? Guarda, perché è il centro più grande d'Italia. Dopo la chiusura della Fiat di Termini Imerese, il CARA di Mineo è l'azienda più grande della Sicilia. Pensa che da Bruxelles arrivano 4 milioni e 700 mila euro al mese, insomma fanno 50 milioni l'anno, contando che ci sono 4 mila e 600 migranti a fronte di una capienza di 2 mila che ce ne dovrebbero stare. Quindi insomma una pepita d'oro, una grandissima risorsa per chi vuol fare malaffare, no? Dicevi circa 5 milioni. Uova d'oro, infatti ci lavorano circa 400 persone del territorio, lo gestisce proprio un consorzio dei comuni del territorio. A fronte di tutto questo io sono entrata in queste case che dal di fuori era il centro degli militari americani di Sigonella un tempo. Sì. Dal di fuori sembrano delle villette, casette popolari, dentro sono assolutamente fatiscenti, io ho scattato anche delle foto, bagni impraticabili, camere dove dormono nelle brandine 3-4 persone e più restano. E più questo è remunerativo ovviamente per il consorzio e per tutto il giro di persone che, da quello che abbiamo scoperto, ci sta dietro. Adesso il CAR è stato nominato nelle intercettazioni, come ti dicevo, il business dei migranti, come diceva Buzzi, rende più della droga e vedremo, insomma adesso c'è anche un'inchiesta dell'antimafia siciliana proprio che si sta per aprire sul CAR di Mineo in particolare, vedremo cosa verrà fuori. Quindi Valentina, per quello che tu sai, che hai potuto capire di questi intrecci così complicati, questi soldi, questi finanziamenti che arrivano dall'Europa così cospicui, invece arrivavano soprattutto nelle tasche di qualcuno. più che aiutare gli immigrati? Io un bilancio di questo consorzio non sono riuscita a averlo, pur avendo parlato con la Presidente e col direttore. Di sicuro allora arrivano 30 euro a migrante al giorno, che i calcoli te li ho fatti prima, sono appunto 4 milioni 700 mila al mese, circa 50 milioni l'anno, e per una situazione di questo tipo. Non solo, ci sono 7 psicologi e 7 avvocati per 4.700 persone. E io ho parlato con delle persone, degli ospiti stranieri del Ghana, della Nigeria, non vedono mai un avvocato e sono lì da un anno e due mesi, un anno e tre mesi, in media un anno. Più rimangono certamente, più i giorni passano e più arrivano fondi. Quindi diciamo che già questo calcolo è inquietante. Se poi ci fosse uno straccio di bilancio pubblicato da qualche parte, potremmo capire dove finiscono effettivamente tutti i soldi, visto che le strutture sono fatiscenti. E infatti il procuratore di Roma, Pignatone, lui che ha aperto, che sta seguendo questa inchiesta, ha detto: di operazioni ce ne saranno di nuove, continueremo ad andare avanti. Evidentemente è un tale intreccio così intricato di affari, di malaffare, di politica, di imprenditoria, che ci sarà davvero tanto, tanto da lavorare e tanto purtroppo da scoprire. Roberta, appunto, mi permetto di dirti di queste persone, perché chiaramente a me chiedevano: ma perché noi dobbiamo rimanere un anno e mezzo? Ecco perché così fruttate, appunto, come dicevi tu, delle galline dalla uova d'oro, purtroppo. Valentina Furlanetto, mi pare che poi dopo la tua inchiesta andrà questa domenica, dopodomani, sì, se non sbaglio, no? Andrà domenica il reportage, domenica mattina il reportage, ne continueremo a parlare anche lunedì con delle voci in effetto giorno, poi magari anche in effetto notte, cercheremo di pubblicare anche le foto sul sito, insomma abbiamo cercato di coprire questa, di accendere un faro insomma su questo CARA che, appunto, lo ripeto, è il più grande d'Europa, e come abbiamo potuto vedere è molto inquietante che si potessero fare dei soldi anche su queste persone, e ci distinguiamo anche per questo, purtroppo. Grazie Valentina Furlanetto, intanto. Grazie a te. Ciao Valentina. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Io, prima dello spazio europeo, vi riassumo brevemente le notizie proprio principali: quello dello sciopero generale di oggi con alta adesione, ma anche caos e scontri con cortei in oltre 50 città. Renzi che dice: non mi faccio impressionare. Napolitano che ha invocato il rispetto reciproco. Poi il Consiglio dei Ministri che con un disegno di legge ha aumentato le pene sulla corruzione, e arriva adesso una notizia che riguarda il caso di Loris. Non soltanto oggi è stato convalidato il fermo per la mamma, ma secondo le perizie non ha mai subito violenza sessuale. Europa. Europa 24 notte. Domani ci sarà l'Euroreportage settimanale di Radio 24 che vi porterà nel cuore operativo dell'agenzia europea Frontex nella capitale polacca Varsavia. Faremo quindi il punto sulle operazioni di coordinamento delle frontiere esterne europee. Troveremo soprattutto, faremo un primo bilancio dell'operazione di pattugliamento marittimo Triton partita lo scorso 1 novembre tra Sicilia e Malta. Tra gli ospiti ci sarà Antonio Saccone, capo dell'unità analisi del rischio di Frontex, che in questa anticipazione traccia una previsione sui flussi migratori in direzione dell'Europa nei prossimi mesi. Sentiamo quindi con il microfono di Sergio Nava. Da premettere, nei mesi invernali c'è sempre una riduzione notevole dei flussi, perché le condizioni del mare non permettono un ventaglio di tempo a disposizione per poter attraversare rotte, lunghe rotte. Quindi registriamo sempre una diminuzione dei flussi dalla Libia e una quasi cancellazione dei flussi dall'Egitto. Quest'anno però stiamo avendo un fenomeno nuovo, che è l'utilizzo di nave cargo, di mercantili di 50, 60, 70 metri destinati alla distruzione, alla rottamazione, sui quali vengono fatti imbarcare persone soprattutto di nazionalità siriana, ma anche palestinesi, iracheni, afghani, e partono dalla zona, diciamo, dalla costa sud orientale della Turchia, che è abbastanza vicina alla provincia di Idlib in Siria, dove ci sono molti migranti siriani di religione cattolica che non potrebbero attraversare la frontiera tra la Turchia e la Siria via terra, perché gli viene chiesto una tassa di 16 grammi di oro a persona, lo chiamano Izia. Per cui loro devono devono cercare di arrivare. Hanno trovato un traghetto, un servizio di traghetto fisso adesso che fa servizio tra Latakia e Mersin. Una volta a Mersin vengono imbarcati su queste barche di 60-70 metri che poi vengono dirette verso l'Italia. La cosa incredibile è che queste barche fanno praticamente un servizio, esagerando, quasi postale. Partono dalla Turchia, scendono in Egitto e prendono altri migranti in Egitto. Ecco, poi che percorso fanno? Poi dall'Egitto proseguono paralleli alla, diciamo, alla costa egiziana e la costa libica fino a fermarsi a Bengasi. Bengasi sta più o meno in corrispondenza a sud della Grecia, e da Bengasi caricano ancora altre persone, in questo caso gente africani, della siriani, somali o eritrei. E da lì poi proseguono verso la Sicilia, dove appunto arrivano in Sicilia quando i motori non hanno problemi. Poi abbiamo già avuto diversi casi in cui sia a Cipro che a Creta hanno dovuto fare richiesta di soccorso perché erano in situazioni critiche, i motori non funzionavano. Ed essendo imbarcazioni molto più grandi, fino a quanti migranti possono trasportare? Abbiamo registrato 500-600 persone a bordo di queste barche, ce ne sono state già 4 di questa, e questo è il fenomeno che ci preoccupa, perché queste barche possono attraversare il mare anche in condizioni di maltempo, se i motori funzionano, e questo potrebbe consentire di sostenere un flusso di migranti molto più alto di quello che abbiamo avuto fino adesso, anche nei mesi invernali questo anno. Quindi stiamo cercando di verificare che si può fare per contrastare questo fenomeno. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. E a questo punto, mentre si chiude la settimana, come non coinvolgere il colonnello Mario Giuliaci per sapere che tempo farà, caro colonnello? Sì, ciao Roberto, buonasera, ciao, a tutti. Mario. Bene, diciamo che sarà bello al sud, sulle regioni adriatiche, invece domani peggiora in termini di nuvole sul resto d'Italia, sul nord Italia, Toscana, Umbria, Lazio, con piogge deboli però diciamo sulla Liguria, sulla Lombardia e marginalmente sulla Toscana e sul Friuli. Domenica ancora invece nuvole al nord, regioni tirreniche, bello sul resto d'Italia, ancora delle piogge sul Lombardia, Liguria, Friuli e Venezia Giulia. Quindi, come si vede, insomma, le aree un po' ove pioverà sono molto molto ridotte, per cui sì, ci sarà il fastidio delle nuvole soprattutto al nord e parte del centro. Il sud invece direi che resterà fuori da parte di questa nuova perturbazione. Invece lunedì ci sarà un peggioramento più deciso che durerà fino a mercoledì, coinvolgendo gran parte dell'Italia. Quindi, colonnello, delle piogge non ci liberiamo, le temperature invece mi sembra aver sentito che risalgono, che sono ancora abbastanza clemente. Sì, le temperature risalgono, diciamo, non si vede almeno fino al 20 di dicembre una vera ondata di freddo invernale. Poi oltre, diciamo, preferiamo non pronunciarci. Non ci spingiamo oltre, non ci esponiamo, perché poi finiamo nei guai. Grazie, colonnello Giuliaci, buon tempo a te. Grazie, salutate gli ascoltatori. www.meteogiuliaci.it per il resto delle previsioni, se volete crogiolarvi nel tempo che sarà. Intanto ci fermiamo, ci ritroviamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti.